dolcemente, lei certo lo sa come vanno le cose. Uno ruba e finisce in galera per 3 o 4 anni. Si ricorda di certo che fu proprio lei a condannarmi. Si ricorda di quel che mi disse durante il processo. Lei mi disse: la legge non può perdonare. Il sistema ha dei limiti, ma non ci posso far niente. Eccellenza, lei forse ricorda la mia vergogna. Per un ladro avevo rubato, dovevo pagare. Tutto ciò che mio padre e mia madre avevano detto stava scritto lì in quella sentenza che mi condannava. Eccellenza, ho una cosa da dirti, ti devo dir grazie. Ero un ladro e qui dentro ho scoperto che sono innocente. Eccellenza, ho scoperto che il porco sei tu e stai fuori. Sei il porco da guardia che ha messo sopra il capitale. Eccellenza, non serve spostarci da un carcere all'altro. Dappertutto oramai c'è un compagno a spiegare le cose. Eccellenza, è sbagliato rubare, questo l'ho capito. Perché basta levarti di mezzo e non serve rubare. Eccellenza, è sbagliato rubare, questo l'ho capito. Perché basta levarti di mezzo e non serve rubare.